compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In Algeria con Amara Lacus. Stiamo per far visita al paese d'origine dello scrittore che ci fa compagnia per questa puntata. Un paese dal quale lui è dovuto scappare nel 1995 per motivi politici. Avere un occhio così privilegiato nello scoprire i lati belli ma anche i lati oscuri di questo luogo rende il viaggio di oggi a tratti anche una lezione di storia. Niente di più interessante. E allora partiamo per l'Algeria. Nome Algeria. Forma di governo Repubblica Democratica. Capitale Algeri. Popolazione circa 35 milioni di abitanti. Lingua arabo, lingua berbera o tamazight. Lingua nazionale. Il francese costituisce la seconda lingua di gran parte della popolazione. Confini. Confina a nord con il Mar Mediterraneo, mentre le frontiere terrestri si dividono con la Tunisia a nord-est, la Libia a est, il Niger a sud-est, il Sahara occidentale, la Mauritania e il Mali a sud-ovest, per terminare con il Marocco ad ovest. Clima. Il clima della zona costiera è caldo d'estate e mite d'inverno, mentre la regione del Sahara è caratterizzata da giornate caldissime e notti molto fredde. Religione. La maggior parte della popolazione, all'incirca il 99%, è di fede islamica. Valuta, dinaro algerino. Con me c'è Amara Lacus. Amara, in berbero, significa costruttore. Nomen omen, con la differenza che per il mio compagno di viaggio non sono i mattoni che mette uno in fila all'altro per costruire case, ma sono parole e pensieri per creare storie e raccontare vite. Del resto, il nome è il primo marchio di diversità, come dice lui in uno dei suoi libri. Ma veniamo a noi e alla diversità di questo viaggio. Come possiamo raccontare l'Algeria a chi non la conosce? L'Algeria è un paese veramente particolare, soprattutto sul piano geografico, perché nello stesso paese abbiamo 1200 km di coste, quindi sul Mediterraneo, poi a 200 km, anche a 150 dalle coste, abbiamo delle bellissime montagne dove si può andare a sciare durante l'inverno. Poi altri 200 km nel profondo sud troviamo il Sahara, il deserto. Ecco, quindi lo stesso paese abbiamo mare, montagne e deserto. Questa è la particolarità, diciamo, geografica. Amara mi sta introducendo per gradi nel suo paese. Siamo partiti dalle particolarità geografiche che già da sole rendono l'idea di un paese complesso. Ma lasciamo spazio alla complessità della storia. Che è un'altra particolarità storica, che l'Algeria è stato un paese che ha compiuto una rivoluzione straordinaria. Dopo 130 anni di colonialismo francese, gli algerini sono riusciti a sconfiggere questa potenza coloniale dopo una guerra che è durata 7 anni, che ha fatto tantissimi morti. Insieme alla guerra vietnamita, certamente la guerra, diciamo la rivoluzione algerina insieme alla rivoluzione vietnamita, sono forse le due più grandi successi dei movimenti per l'indipendenza nel Novecento. La guerra d'Algeria. Vale la pena rispolverare un po' le mie nozioni di storia. È il 1954, quando il Fronte di Liberazione Nazionale inizia la lotta armata contro la potenza coloniale, attirando l'attenzione dell'opinione pubblica francese sulla situazione in Algeria. De Gaulle si sente alle strette e pensa all'autodeterminazione del paese, che porterà però a un colpo di Stato. Anni oscuri per la Francia. Insieme ai libri di storia mi passa sotto gli occhi il film di Gillo Pontecorvo, La battaglia d'Algeri, nella scena dove il colonnello Mathieu parla con i giornalisti di ciò che sta accadendo. Che cosa manca allora? Una volontà politica, che a volte c'è e a volte no. A volte non è sufficiente. Che si diceva ieri a Parigi? Niente, è uscito un altro articolo di Sartre. Mi spiegate perché i Sartre nascono tutti dall'altra parte? Allora le piace Sartre, colonnello? No, ma mi piace ancora meno come avversari. Era il periodo in cui alcuni intellettuali avevano preso le distanze dal governo per schierarsi a fianco dei movimenti di indipendenza e Sartre, dalle pagine di L'État moderne, primo tra tutti, calcava la mano sui meccanismi di oppressione coloniale. Come dargli torto? Come non essere d'accordo con lui e la sua definizione di subumanità, parlando della condizione in cui il colonizzatore tiene il colonizzato? Nel 1961 un referendum, promulgato in Francia e in Algeria, portò finalmente all'approvazione dell'indipendenza algerina, che diventa realtà l'anno seguente con gli accordi di Evian. Sartre non perde l'occasione per uscire con un altro articolo intitolato I sonnambuli, nel quale si legge la sua amarezza, ma anche la sua collera ancora vigorosa. Un impegno, il suo, ricco di insegnamenti, anche oggi. È doveroso dire che non è questo il momento di gioire. Da 7 anni la Francia è un cane impazzito che si trascina una casseruola legata alla coda e che si spaventa ogni giorno un po' di più per il suo stesso fracasso. Nessuno oggi ignora che abbiamo rovinato, affamato, massacrato un popolo di povera gente per costringerlo a cadere in ginocchio. È rimasto in piedi, ma a quale prezzo? Algeri, Algeri, Algeri, ci sono i fiori, c'è il mare. Algeri, Algeri, Algeri, c'è anche un albero vicino al mare. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In Algeria con Amara Lacus. Siamo in Algeria con Amara Lacus. Questo viaggio è l'occasione per me di rispolverare un po' la storia. Per Amara, che di quella storia è stato vittima, è l'occasione forse di vedere con l'occhio del turista, anche se non è facile, la sua terra. È partito facendo delle considerazioni geografiche per poi passare subito a quelle storiche, raccontando della guerra d'Algeria e, con orgoglio, della rivoluzione che ha portato all'indipendenza dai francesi. E ora siamo arrivati al presente. Una terza particolarità è più del 70% degli algerini sono giovani, che hanno meno di 35 anni, quindi un paese che ha veramente dei grandissimi potenzialità. Purtroppo, questa è la quarta considerazione, abbiamo, come tanti paesi nel mondo arabo, nel terzo mondo, abbiamo una classe dirigente incapace, corrotta, che non è mai riuscita a sfruttare queste potenzialità, perché poi bisogna aggiungere anche il petrolio. L'Algeria è uno dei paesi produttori del petrolio, il primo fornitore dell'Italia per quanto riguarda il gas. Quindi ci troviamo di fronte a questo grande paradosso, e questa è la mia grande frustrazione e delusione: un paese ricchissimo con una popolazione povera. Amara è arrivato in Italia con uno zaino dentro al quale c'era il manoscritto del suo primo romanzo scritto in arabo, Le cimici e il pirata, che riscriverà poi nella versione italiana col titolo Un pirata piccolo piccolo. In queste pagine racconta di una generazione e di un paese che ha anticipato forse quello che sta succedendo nel mondo arabo. Il protagonista, infatti, vuole il pane e la libertà, come i giovani che oggi si stanno ribellando alle dittature. Gli chiedo se proprio questa popolazione così giovane è ancora il vero motore del suo paese. Certo, però quando c'è una popolazione così grande di giovani, poi non ci sono delle potenziali, non ci sono delle opportunità, ovviamente questa opportunità diventa un grosso problema. Infatti in Algeria la maggioranza dei giovani deve andare via, e ci sono purtroppo anche dei casi di cronaca nera. La settimana scorsa è arrivata una piccola barca in Sardegna dall'Algeria, e dove rischiavano di morire, è morto tra l'altro anche un giovane. Non si capisce come è possibile, un paese che esporta il petrolio, quindi dovrebbe essere un paese ricco, poi i suoi figli non trovano possibilità di vivere dignitosamente. Ma come si fa a rimanere di buon umore in questo paese, mi chiedo, scrive Amara in un pirata piccolo piccolo. E così i giovani, per vivere dignitosamente, se ne devono andare per poi trovarsi in paesi come il nostro e non sentirsi a casa. Scontro di civiltà per un ascensore in Piazza Marconi. È il titolo di un altro libro di Amara, da cui è stato tratto un film. E qui si vede bene come la palazzina multiculturale intorno a cui ruota tutta la storia sia espressione di una diversità troppo spesso sofferta e smarrita. Anurit, ma che te dice la capoccia a te? Così mi fai scappare via tutti i clienti. Le autorità competenti dovrebbero mettere cartelli tipo vietato mangiare la pizza, accanto a quelli che dicono vietato fumare. Tu sei matta. Guarda, io glielo dico a Amedeo, che non te posso più tenere a lavorare qua. Ma chi ha legge una come te? Non mi risulta che la legge punisce chi odia la pizza. Ma insisti pure. Ma te la voglio andare, vattene. Non vedi questa, non ci segrete. Se volete lavorare qua, vi dovete far piacere quello che piace a noi. Sono tanti i motivi per cui i giovani se ne vanno dall'Algeria. Amara, e come lui tanti giornalisti e scrittori, se n'è andato perché si è trovato nel mirino del fondamentalismo e del potere. Aveva un programma culturale alla radio, ma non voleva essere un intellettuale servo, come dice lui. Perciò se n'è andato. Allora io sono tornato la prima volta in Algeria dopo quasi 9 anni di esilio. Io dal 95 fino al 2004 non potevo tornare per problemi politici, perché sono andato via nel 95. Dopo la mia, diciamo, il mio rifiuto di come posso dire, di vivere in un paese dove non c'è la libertà, dove soprattutto la democrazia veniva messa diciamo, nel terza, la quarta scelta, non era una scelta fondamentale, e quindi io cercavo un paese dove potrei, dove posso vivere liberamente. Sono tornato nel 2004, le cose sono cambiate e ho trovato intanto un paese che, per fortuna, dopo anni di terrorismo negli anni 90, che bisogna ricordare hanno causato più di 150.000 morti, ha cominciato ad alzare la testa e a guardare il futuro. E questa è la prima, quindi ogni volta che torno trovo questa grandissima voglia di vivere nonostante tutti i problemi. Voglia di vivere che ci piacerebbe tanto poter sentire e vedere coi nostri occhi andando là. Ma l'Algeria non è un paese facile da visitare. C'è da stare molto attenti. La CUS ci tiene a sottolinearlo. Stare più attenti, ovviamente, perché intanto non è facile avere un visto per l'Algeria. Ho tanti amici che hanno avuto un diniego, un rifiuto. Però ci sono di viaggi organizzati, ecco, io consiglio alle persone che vogliono visitare l'Algeria di essere attenti, poi ci sono delle idee, fare questi viaggi organizzati che sono più, come posso dire, più protetti. Ricordiamo che nel sud dell'Algeria tuttora ci sono dei rapimenti a sfondo, diciamo, terrorismo, di criminalità diciamo così organizzata, quindi bisogna veramente essere attenti, però ci sono dei viaggi organizzati che insomma da fare, ecco. C'è un detto arabo che ad Amara piace molto: le peggiori disgrazie sono quelle che ti fanno ridere. Il suo modo di raccontare realtà dure è sempre ironico, mutuato anche dalla commedia all'italiana, come racconta lui. Basti pensare che uno dei suoi libri si chiama Divorzio all'islamica in Viale Marconi, riferimento chiaro al film di Pietro Germi. E come per quell'Italia rappresentata dal regista italiano c'è stato un cambiamento, Amara se lo augura anche per la sua Algeria. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In Algeria con Amara Lacus. Algeria, un paese ricchissimo con una popolazione povera, come l'ha descritto Amara Lacus, scrittore algerino scappato in Italia nel 1995 per motivi politici e che ci sta portando ora in giro per la sua terra d'origine come un turista. Ogni volta che torna, vede, nonostante le contraddizioni politiche ed economiche, una grande voglia di vivere della popolazione che, per gran parte, è giovane. Abbiamo fatto un tuffo nel passato recente ricordando la rivoluzione per l'indipendenza dalla Francia, ma la particolarità geografica di questo paese è forte almeno quanto quella storica. Come ha detto all'inizio della nostra chiacchierata a Amara, c'è mare, montagna, deserto, c'è tutto. Diciamo che rispetto al Marocco e la Tunisia, che sono luoghi molto esplorati, conosciuti, l'Algeria rimane veramente una grande avventura, per cui se le persone vogliono scoprire cose nuove, certamente l'Algeria è uno di questi paesi. Io consiglierei di passare qualche giorno nelle grandi città, ad Algeri, perché lì c'è proprio l'incontro con la gente. Poi piano piano spostarsi all'interno, quindi dal mare fino alle montagne, poi ovviamente il deserto. Il deserto certamente è un'esperienza straordinaria da fare. Algeri e l'incontro con la gente. Bella questa immagine. Ma quasi tutti i viaggi organizzati, come ci ha consigliato di fare Amara, indicano il Sahara come meta principale della vacanza in Algeria e non solo per ragioni di sicurezza. Il Sahara algerino, infatti, è magnifico, con montagne che sfiorano i 3.000 metri, grandi campi di dune, oasi e canyon. Qui, tra l'altro, si trova Timimoun, una cittadina fantastica chiamata la regina del deserto, un'oasi con case costruite di fango rosso che si sovrappongono l'una con l'altra, quasi a difendersi del calore del Sahara. Sembra di sentirlo sulla pelle quel calore. Chiedo ad Amara se c'è un ricordo particolare che lo riporta subito nella sua terra. Io mi ricordo adesso quando torno nella mia città natale, mia casa di famiglia, c'è questo gelsomino che la notte veramente raggiunge tutte le case. È straordinario, un gelsomino notturno che non ho mai visto altrove. E s'aprono i fiori notturni nell'ora che penso ai miei cari. Amara come pascoli. Il gelsomino notturno è il momento per pensare a casa, ai propri cari. Ad esempio, le moschee sono verniciate di bianco, perché il bianco nella religione musulmana è il simbolo, come le altre, penso le altre culture, le altre religioni, il simbolo della purezza. Per cui le case molto spesso ad Algeri sono, ecco, verniciate di questo bianco qui. E se il profumo è quello intenso del gelsomino, il colore è quello pacato e puro delle moschee. Ma stiamo per arrivare al piatto forte. يا بوتيو كتشوم شي مال ولاد نهار Dolzone di Cameleofo. Ma diciamo il piatto più rappresentativo è il couscous. Però qui in Algeria, rispetto non so alla Tunisia, le ricette cambiano. Ad esempio, da noi in Algeria non c'è il pesce col couscous, con il couscous con pesce, quindi il couscous è molto spesso con la carne, quindi mangiare un couscous algerino non sarebbe una bella cosa. Ma il couscous è sempre una bella cosa, e non solo per il gusto, ma anche per la sua tradizione. Infatti è un piatto che apparteneva alle antiche popolazioni dei berberi ed è oggi piatto nazionale. È un piatto inoltre dalla forte valenza sociale, intorno al quale si riunisce una famiglia o una comunità e tutti attingono a un unico grande recipiente, sedendo in cerchio e spesso pregando prima. Altra cosa straordinaria è che in genere non si utilizzano posate per servirsi, ma pane non lievitato, nessun freddo intermediario tra il nutrimento e il corpo. Se uno va ad Algeri, che è una tappa che io consiglio tanto, certamente la Kasba di Algeri è da vedere assolutamente. Il quartiere, diciamo, turco, costruito nel, diciamo, il 600, 17 secolo, si affaccia sul una piazza bellissima, da lì si può vedere il mare. Che anche ad esempio in Sicilia, io sono stato a Mazara del Vallo, e a Mazara del Vallo c'è proprio il quartiere, la Kasba di Mazara del Vallo, ci sono queste case fatte arabe, quindi con delle terrazze, con dei cortili bellissimi. E tra l'altro la Kasba di Algeri è stata considerata dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità. È una visita assolutamente da fare. La Kasba, col suo dedalo di stradine strette e tortuose, costruite così per meglio difendersi dal sole, dal vento e dagli attacchi dei nemici, i suoi vicoli ciechi su cui si affacciano caratteristici cortili e case pittoresche, come a Mazara del Vallo. Amara ama la Sicilia. E infatti, come dice lui, gli arabi non vengono in Italia, ma ci tornano. È giunto il momento di fare una domanda sulle sonorità arabe, che ormai si sentono sempre di più anche da noi. Allora, musica ormai è adesso in Italia, in Europa, in Occidente, adesso questo genere musicale algerino è diventato conosciuto con la musica Rai, e abbiamo dei cantanti come Khaled, che sono dei nomi molto, molto conosciuti. Khaled stesso è venuto in Italia tantissime volte. Ecco, c'è questa musica tipicamente giovanile, infatti i cantanti di Rai come Khaled in Algeria vengono chiamate Shab vuol dire giovane, quindi aggiungono sempre questa parola. E sulla musica vale la pena tornarci tra poco per approfondire. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In Algeria con Amara Lacus. Siamo ormai alla fine del viaggio in compagnia di Amara Lacus. Ci ha portati nella sua terra d'origine, l'Algeria, tra ricordi cupi della guerra per l'indipendenza dalla Francia e quelli più recenti del terrorismo e della povertà in cui si trova tuttora la gente, c'è stato spazio anche per visitare il deserto con le sue oasi strepitose e Algeri con le sue bianche moschee e la sua Kasba. Siamo finiti poi a parlare di musica e Amara ha cominciato a raccontarmi di questo genere musicale chiamato Pop Rai, di cui Khaled, molto famoso anche nel resto del mondo, è uno dei rappresentanti. Ma cos'è esattamente il Pop Rai? Una rivendicazione della gioventù. Una musica straordinaria perché è un tipo musicale perché è aperto a tutti a tutte le altre musiche, cioè c'è un esperimento creativo straordinario. Questo tipo di musica è nato nell'ovest dell'Algeria, in città come Orano, dove il grande Albert Camus ha ambientato il suo romanzo sulla peste, però non c'entra niente con la peste. Orano è una città bellissima dove è nato questo tipo di musica. Poi c'è un altro tipo musicale molto bello, veramente le poesie musicate, sono i grandi testi poetiche, testi poetici musicate, che si chiama Shabi, vuol dire popolare, la musica popolare, e qui ci sono dei grandi poeti. Se andiamo a vedere sul vocabolario arabo-italiano cosa significa la parola Rai, troviamo la seguente spiegazione: parere, opinione, idea, concetto, proposta, suggerimento, consiglio, voto, senno, giudizio, discernimento, opinione soggettiva, decisione secondo il proprio giudizio e non sul fondamento del Corano e della Sunna. Il Rai, prima che un modo di fare musica, è un modo di vivere, pare, ed è nato ad Orano, città costiera più cosmopolita degli altri centri algerini. A proposito di Orano, ecco come la descrive la scrittrice algerina Asia Jebar. Orano è una città dove le comunità spagnole, ebraiche e arabe coabitano. È una città un po' a parte, ed è per questo che i suoi abitanti hanno la fama di essere gay e di avere una parlata simile a quella del Marocco settentrionale. Era anche la città dove si andava a fare bisboccia in cerca di donne, di serate allegre e di Rai. Chiedo ad Amara se ha mai avuto l'occasione di fare da cicerone veramente per qualche amico italiano in Algeria. E la risposta mi riporta a un'altra puntata di Compagni di Viaggio, perché guarda caso, l'amico col quale è stato ad Algeri è uno scrittore che ci ha tenuto compagnia tempo fa per un viaggio a Buenos Aires. Sì, io ho condiviso un'esperienza bellissima 4 anni fa con Massimo Carlotto, che è uno scrittore italiano, un carissimo amico, pubblicato sempre con il mio editore. Massimo Carlotto ha pubblicato 4 anni fa un romanzo che si chiama Cristiani di Allah, un romanzo ambientato ad Algeri nel XVI secolo. È la storia di due europei, uno di origine albanese e l'altro di origine tedesca. Sfuggono l'Inquisizione, fuggono dall'Inquisizione e vanno a rifugiarsi ad Algeri, perché ad Algeri nel 1600 era un'Algeria cosmopolita, aperta, tollerante, eccetera, eccetera. Tra l'altro loro sono gay, tutti e due, quindi vanno a vivere la loro storia proibita lì ad Algeri. Allora Massimo Carlotto voleva, un po' dopo aver scritto questo libro, voleva approfondire questo aspetto, diciamo così, di questa città, e siamo andati insieme e è rimasto veramente affascinato e colpito. E in questo parallelismo con l'Italia, che non manca mai, sentiamo cosa mi dice di Algeri e dell'Algeria dopo averla vista con Massimo Carlotto. Ecco, una città, Algeri ricorda molto, e questo me lo dicono molti amici italiani e europei, quando vanno ricorda Napoli, ecco, ricorda Genova. Queste sono due città che vengono molto spesso citate, e infatti sia Genova che Napoli sono veramente molto vicine, soprattutto il rapporto col mare, queste città che si affacciano sul mare. Per chiudere faccio la classica domanda: se anche lui ha letto libri che l'hanno portato a vedere qualche paese, qualche città. Dicevo, dopo aver letto Jean-Claude Izzo, la trilogia marsigliese, sono romanzi pubblicati da EO, che è il mio editore italiano, e quindi sono andato a scrivere questa bellissima Marsiglia raccontata da Jean-Claude Izzo. Gli scrittori allora sono davvero degli ottimi compagni di viaggio. Perché la letteratura, è buona, offre veramente delle chiave per andare in questi città, perché le città comunque sono un po' come le stanze, ci sono delle porte, se tu riesci a trovare una chiave per aprire questa porta, certamente entrerai dentro e scoprirai delle cose fantastiche. La letteratura in qualche modo è come una guida, cioè non è una guida turistica che ti dà le informazioni scontate, ma una guida particolare, come la guida nel deserto, ecco, ti porta da solo non ci arriverai. Questa è secondo me la letteratura quando racconta le città, le racconta molto bene ovviamente. Ora Amara Lacus è in libreria con Un pirata piccolo piccolo, edizioni E.O.